Noi abbiamo deciso di rilanciare l'idea proposta da CGIL e CISL e UIL a livello nazionale di realizzare una diffusa campagna di informazione e formazione nei luoghi di lavoro sul valore della campagna vaccinale. Abbiamo deciso di utilizzare uno strumento che abbiamo nei contratti dei metalmeccanici, che sono 24 ore di formazione ogni triennio per tutte le lavoratrici e lavoratori, introdotte dagli ultimi contratti, e abbiamo proposto alle aziende, se è vero che le aziende condividono con noi questo obiettivo e questo impegno, di utilizzare in modo condiviso un'ora delle 24 per realizzare un momento di formazione e informazione per tutti i lavoratori, azienda per azienda. Abbiamo però anche chiesto contemporaneamente alle istituzioni locali, e in modo particolare alla Regione, di mettere a disposizione di questa campagna personalità autorevoli del mondo sanitario per essere, tra virgolette, gli esperti e i formatori di quel momento. Le istituzioni locali, in particolare la Regione, ieri con una nota ha risposto dicendo di accoglierla favorevolmente. Insomma, su cosa dovrebbe vertere questo incontro? Anche perché c'è un po' di confusione, no? su questi temi ultimamente, tra disinformazione e altro. Noi vogliamo anche un po' cambiare l'ordine del discorso con questa uscita pubblica. Abbiamo troppo parlato delle forzature e delle divisioni che si sono create nei luoghi di lavoro con l'equiparazione delle mense aziendali ai ristoranti, e quindi si è concentrati in questa discussione brutta che si è originata per una FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi tutti, sindacati dei metalmeccanici e sindacati nazionali di CGIL e CISL e UIL, condividiamo la necessità di velocizzare e di completare la campagna vaccinale, e quindi pensiamo che sia giusto, perché nessun lavoratore ha avuto un momento di riflessione, di formazione sulla campagna vaccinale, di portare sul luogo di lavoro questo momento di formazione, e all'azienda chiediamo di prendersi anche questa responsabilità. Abbiamo visto un po' troppo disinvoltura in questi mesi in cui le aziende sono sembrate non così coinvolte. Ci ricordiamo un anno e mezzo fa, quando bisognava per forza riaprire le aziende nel momento peggiore della pandemia. Bene, adesso le aziende di impegnarsi con noi assumendosi un impegno e una responsabilità. Fino a questo momento vi hanno risposto? Sono convinto, visto che l'uscita pubblica è stata ieri, che nel giro di pochissimi giorni, quindi tireremo le somme a metà della prossima settimana, cioè dopo una settimana dall'avvio, e sono convinto che partendo dalle grandi imprese di Bologna ci sarà una risposta positiva, perché sono le stesse imprese nel momento più difficile della pandemia hanno lavorato insieme al sindacato, insieme ai delegati, per mettere in sicurezza tutti gli ambienti di lavoro. Quindi sono convinto che c'è una cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro che anche in questo caso riemergerà con forza, e sono convinto che avremo una risposta positiva. Il tema lo hai accennato prima quando si parlava delle mense aziendali, appunto c'è il tema del Green Pass che, come dire, anche ha diviso e scaldato anche un po' gli animi in certi contesti. A proposito del dibattito sul posti di lavoro, quindi non solo sulle mense, appunto il Green Pass, voi come siete orientati? Noi chiediamo che ci sia una responsabilità del governo e della politica, governo, Parlamento, appunto delle forze politiche, per assumersi loro la responsabilità di produrre una legge sull'obbligo vaccinale, perché non si può chiedere responsabilità individuale e collettiva alle cittadine e ai cittadini. Noi invitiamo tutte e tutti a vaccinarsi, ma senza un'altrettanta assunzione di responsabilità da parte di chi ha il potere legislativo, che non mi pare sia in capo alle FAQ, ma in capo al Parlamento. Io ho studiato che è in capo al Parlamento, poi con i decreti arriva al governo, però è in capo al mondo della politica.